1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20 minuti in questo istante, amici di 24 mattino, siamo qui, questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa, quindi dobbiamo scoprire che cosa ci offrono i giornali. Siamo pronti, caro Peter Bescapè, a scoprirlo? Andiamo! Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh! È mercoledì 16 di novembre e intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore sul PIL in risalita più 0,3% nel terzo trimestre. Dopo la crescita zero del secondo periodo tirano domanda interna, manifattura e turismo. Poi gli altri quotidiani aprono quasi tutti sulla questione del veto italiano a Bruxelles. Questo è il titolo del Corriere della Sera, il veto italiano a Bruxelles, oppure Repubblica, l'Italia gela Bruxelles, veto sul bilancio dell'Unione Europea, Renzi traditi patti. La Stampa, Renzi basta soldi a questa Europa. Il Giorno, Renzi lo stop all'Europa. Per il Messaggero, bilancio Unione Europea, il veto di Renzi. Avvenire invece dice il pre-veto dell'Italia verso il no al bilancio europeo. L'apertura del giornale invece è questo: Renzi abbaia l'Europa ma tassa i nostri cani. E questo lo vedremo tra poco, eh? La questione dei cani da tassare, lo so che sono già lì tutti gli italiani, appena sentivano, vabbè, Bruxelles, Europa, la solita storia. I cani, come la tassa sui cani? Si sono svegliati, vi siete svegliati tutti, vi vedo, la tassa sui cani. Abbiate pazienza ancora 3 minuti e poi vi dico tutto. Ospedali vietati agli italiani, ricoveri liberi per i rumeni. Questo è il titolo della Verità, sanità cola brodo. Mentre Libero, Silvio ne fa fuori un altro. La vicenda Stefano Parisi, vedremo anche questa. Il PD spende 6 milioni per il sì, 1 è per gli italiani all'estero, è invece il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Partiamo però dalla questione sicurezza. I cani, la tassa sui cani. Calma, calma. La sicurezza, soprattutto a Milano, se ne discute dopo che è stata uccisa una persona con colpi di pistola e coltellate in piazzale Loreto, quindi nel pieno quasi centro di Milano. Centro, soprattutto in un orario alle 7 di sera di un sabato. I soldati a Milano, c'è stata l'apertura del ministro della difesa Pinotti, abbiamo sentito anche il giornale radio, pronti a rispondere all'appello di Milano, racconta Virginia Piccolillo a pagina 25 del Corriere della Sera. Il ministro Pinotti, al termine della riunione del Consiglio di Difesa, si dice disponibile a utilizzare un contingente dell'operazione Strade Sicure per la sicurezza del capoluogo lombardo. Per la verità, il sindaco Sala ribadisce su Facebook: non ho mai associato i militari a Via Padova, ma in generale evidentemente. Deciderà il Ministero dell'Interno, si discute con tanto di discussioni, serve, non serve. La mia opinione, l'ho detto mille volte, è chiaro che non risolve il problema criminalità. Pensare di risolvere il problema criminalità con 4 pattuglie dell'esercito è una stupidata. Serve però come deterrenza, perché se uno vive nelle zone dove c'è una camionetta dell'esercito, a me è capitato quando c'era Strade Sicure, è iniziato nel 2008, ce l'avevo sotto casa, potevo scendere alle 5:20 del mattino, oh, tranquillo, sereno, che, come dire, non sarebbero certamente spuntati i coltelli. Sala invoca l'esercito a Milano, ma i militari così sono inutili. Questo è il titolo, per esempio, del Fatto Quotidiano. Anche Repubblica dice: ma sono utili o non utili? Il dibattito. Vengono definiti palliativi. Certo, che la situazione sia un po' più seria dal punto di vista della sicurezza lo testimonia un'altra notizia che ho trovato invece sul Giorno. Veronica Passeri racconta, pagina 14, dopo che c'è stato un accoltellamento nei confronti di una signora alla stazione ferroviaria di Cremona, ora parte un nuovo progetto sicurezza. Guardie giurate armate sui treni dei pendolari. Primo esperimento in Lombardia, l'esperimento Tratta Sicura, partito ieri sui 104 convogli delle tratte Milano-Bergamo via Treviglio e Bergamo-Treviglio. 20 vigilantes organizzati in 9 squadre più una di riserva riusciranno a coprire il 75% delle corse quotidiane garantendo più sicurezza. Dopo che appunto pochi giorni fa una signora di 54 anni è stata accoltellata alla stazione di Cremona. E allora c'è anche questo. So che ci ascoltano in tanti, anche dai treni pendolari, che hanno problemi non solo legati alla sicurezza, ma anche proprio al livello, alla qualità del servizio, soprattutto non solo la puntualità, ma anche il livello dei treni. Sta di fatto che oltre al sovraffollamento, oltre ai ritardi, c'è anche la questione degli agguati e dunque questo esperimento di guardie armate sui treni dei pendolari. Non so, andiamo verso la militarizzazione delle città? No, non è così, però certo non è neanche molto bello prendere un treno o scendere in strada di notte e sapere che dietro l'angolo ci può essere qualcuno malintenzionato. Invece una cosa assolutamente da sottolineare e che voglio mettere in evidenza è quella delle scuole, perché oggi viene resa noto la nuova ricerca, il portale Eduscopio, che fanno sapere dalla Fondazione Agnelli non è una classifica della scuola. Io non capisco mai perché non ci si voglia spingere invece a dire sì, è una classifica delle scuole, le scuole migliori e le scuole peggiori, ecco, non c'è altro modo per dirlo, migliori e peggiori d'Italia, non c'è motivo per... io vorrei una classifica dei docenti, dei maestri, dei professori, questo è migliore, questo è peggiore, meglio, peggio, senza problema giudicare, trovare dei criteri per giudicare e poi giudicare, non c'è alcun problema nel giudicare le persone, il lavoro delle persone. Voi mi giudicate tutti i giorni, potete girare su altre radio, potete stare qui, non c'è nessun problema, non si capisce perché alcune categorie non possano essere giudicate dicendo tu sei più bravo e magari guadagni anche un po' di più e tu sei meno bravo, applicati, studia, formati. Bene, allora la Fondazione Agnelli fa uscire questa classifica Eduscopio e serve soprattutto a chi esce dalle medie per scegliere i licei, gli istituti secondari migliori, con i corsi tecnologici più chance di lavoro. E c'è proprio la classifica, guardate, la trovate su tutti i giornali, per esempio volete sapere quali sono le migliori scuole, i migliori licei, le eccellenze nelle grandi città, a Torino il Camillo Benso di Cavour e il Vittorio Alfieri per il classico, lo scientifico Umberto I e Galileo Ferraris, a Roma per il classico e lo scientifico il Mamiani, e al secondo posto per il classico il Tasso, il Torquato Tasso, mentre al secondo posto per lo scientifico l'Augusto Righi. A Milano c'è un po', si sono sparigliate le carte secondo la classifica Eduscopio di quest'anno, perché al primo posto come classico è una paritaria, il Sacro Cuore, che è anche al secondo posto come migliore scientifico, mentre al classico e al secondo posto il Giosuè Carducci, mentre lo scientifico migliore di Milano l'Alessandro Volta. E così Venezia, Napoli, a Napoli per il classico è l'Umberto I, per lo scientifico il Giuseppe Mercalli. Queste sono le migliori scuole secondo parametri, verificare quanti poi delle persone che hanno frequentato queste scuole hanno migliori opportunità di lavoro, hanno migliori carriere, insomma Eduscopio, la Fondazione Agnelli pubblica tutto ciò. Lo cito spesso in questi giorni il mio amico Jordan, che sto ospitando dallo Utah. Lui lavora proprio nelle scuole e mi ha raccontato che negli Stati Uniti gli insegnanti vengono giudicati così. Ve lo dico così. Volete saperlo? E io l'ho guardato con occhi strabuzzati e ho detto, ma sarebbe una rivoluzione bellissima in Italia. Gli allievi fanno gli esami, fanno le prove, fanno fin dalla prima elementare. Quando i voti degli allievi vanno giù, troppi voti giù, troppo troppo giù, la scuola chiude e la colpa ricade sugli insegnanti. Troppi voti giù degli allievi vuol dire insegnanti no buono, la scuola chiude. Io ho detto che bello che sarebbe anche in Italia, magnifico. Va bene, la tassa sui cani, non posso più prendere altro tempo, lo so che da 5 minuti siete lì a dire sì, ma sta tassa sui cani, allora mi vuoi raccontare sta tassa sui cani? Chi se ne frega della sicurezza, chi se ne frega delle scuole, la tassa sui cani, eccolo qui il giornale, e siamo al premio Mani sul volante se siete alla guida, il PD vuol tassare pure i cani, pagina 7. Di che si tratta? Antonio Signorini, con la scusa della lotta al randagismo, hanno proposto in sede di bilancio la tassa per chi non sterilizza i cani, una tassa comunale annuale istituita dai sindaci che devono anche prevedere esenzioni specifiche. Non si conosce l'importo, fa sapere il giornale. Ma si sa che evitarla, se passerà l'emendamento, sarà difficilissimo. Chissà chi ha fatto questo emendamento. Chissà chi è il parlamentare. Dobbiamo scovare chi è il parlamentare che ha fatto questo emendamento sulla tassa sui cani. In questo momento sarà il parlamentare più... Oh, ah, sono tre, mi dicono, mi dice Peter Pescavè. Peter Pescavè sa tutto. Uno è Anzaldi? Sì. Anzaldi. E l'altro Cova. Altro Preziosi, ma sai tutto Peter Pescavè, vedi tu qua, vedi il merito, Peter Pescavè è meglio di me, mettetelo lui al microfono, al posto mio. Comunque, sventata, no, non si sa se è sventata, c'è la tassa sui cani non sterilizzati, forse in arrivo, forse. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Forza Inter! Forza Inter! Grande squadra cinese della informazione! Grande Meazza! Vabbè, mancano pochi minuti all'arrivo di Mauro Meazza. Sì, sulla scuola devo dire che non ho fatto conto con la furbizia degli italiani che dicono, beh, ma se si giudicassero le scuole facendo gli esami agli allievi e dando per questo voti ai professori, noi daremmo il voto altissimo a tutti e risolveremmo il problema. Bravi, ma questi esami vanno standardizzati, vanno fatti con criteri oggettivi. Vabbè, dai, lasciamo questi sogni agli americani. Allora, l'Europa, noi e l'Europa. Renzi ha detto che c'è il veto, sarebbe meglio dire una riserva, un pre-veto, non è ancora un veto totale e capiremo perché tra poco. Il primo veto dell'Italia al bilancio europeo, come racconta Emilia Patta a pagina 3 del Sole 24 Ore, non costruiranno muri coi nostri soldi. Detto fatto, alla prima occasione Renzi ha trasformato in realtà la minaccia più volte espressa di mettere il veto sul bilancio dell'Unione Europea se i paesi dell'est Europa, Ungheria, Polonia, Slovacchia, non accetteranno di farsi carico del problema dei migranti, rispettando la divisione in quote. E dunque l'Italia ha messo questo pre-veto, non si tratta ancora di un veto vero e proprio, ma di una riserva, che però, visto che la questione è una di quelle che va decisa all'unanimità dei 28, blocca di fatto il provvedimento. L'Italia è l'unico paese che ha posto questa riserva. E infatti il sottosegretario Sandro Gozi, che di fatto ha annunciato su mandato del governo italiano questo veto italiano, viene intervistato al Corriere della Sera e Lorenzo Salvia chiede a lui: scusi Gozi, ma non crede che ora la Commissione si potrà irrigidire ed essere meno generosa col governo e sul fronte della manovra? No, sono sicuro di no, anzi credo che l'effetto sarà opposto, perché il negoziato è ancora in corso e con il suo stop l'Italia lo mantiene aperto, dà la possibilità al Parlamento di migliorare l'intero pacchetto. Non credo dunque ci sia rischio rottura con Bruxelles, stiamo facendo qualcosa che è nell'interesse dell'Italia, ma anche e soprattutto nell'interesse dell'Europa. Sì, ma solo l'Italia ha detto no, come mai? Gli altri stati membri, risponde Gozi, hanno dato più peso ad aspetti diversi, come il potenziamento degli investimenti per infrastrutture dei trasporti, una scelta importante per carità, ma i cittadini dall'Europa si aspettano lavoro, sicurezza e noi vogliamo che l'Europa ci metta risorse che passi dalle parole ai fatti. Questa è la posizione dell'Italia. Ho titoloni sui giornali, il no all'Europa, il braccio duro, diciamo la faccia dura nei confronti dell'Europa, il braccio di ferro con l'Europa. Poi uno va a leggere le motivazioni che ci sarebbero, per carità è un retroscena raccontato da Repubblica, da Alberto D'Argenio a pagina 3 di Repubblica, e scopre questo. È un attacco studiato a tavolino. Il premier punta a recuperare così consensi tra gli anti-europeisti. Cioè, c'è sempre il referendum. Sempre in funzione di sto... di referendum che comincio a guardare così, con un piccolo, piccolo occhio sospettoso, perché non se ne può più. Ma secondo Repubblica è tutto dovuto a questo. Leggete qua, Alberto D'Argenio: sono le ultime cartelline planate in questi giorni sulle scrivanie di Palazzo Chigi a spiegare l'offensiva del governo italiano che in Europa mette due veti in un solo giorno. Due dossier sui quali l'Italia ha ottime ragioni per essere scontenta, ma il piglio così aggressivo si spiega con il contenuto di quelle quattro cartelline. Sono gli ultimi sondaggi del referendum del 4 dicembre e le notizie non sono delle migliori per il governo. Stando infatti alle rilevazioni, il sì è sotto in tutte le regioni, a eccezione di una, l'Emilia-Romagna. Il no è attestato attorno al 53% a livello nazionale. E a dettare la linea aggressiva in Europa c'è anche un altro dato: gli attacchi all'Unione Europea sono la cosa più apprezzata dagli italiani, che invece non sembrano interessati agli altri argomenti della campagna elettorale. Cioè Repubblica ci sta scrivendo che, così in questo retroscena, che non gliene frega niente della questione del veto europeo, che alla fine ci sarà poi il voto, non il veto, ma il voto dell'Italia, il via libera a Bruxelles. Ma è tutto in funzione del fatto che gli italiani vedono male l'Europa e dunque attaccare duramente l'Europa porta voti. Questo su Repubblica a pagina 3. L'altra notizia politica del giorno certamente è l'incredibile, come dire, caducità delle cose nel centrodestra, mettiamola così. Era solo luglio quando Stefano Parisi fu accolto da Silvio Berlusconi in una cena ad Arcore, promosso sul campo come possibile delfino dello stesso Berlusconi. Siamo a novembre, 4 mesi dopo, e nel giro di 4 mesi Parisi sembra, dopo essere stato promosso, fucilato sul campo, ovviamente in maniera metaforica, dallo stesso Silvio Berlusconi, che ieri alla RAI ha parlato e ha detto, in pratica, Parisi, eccolo qua, sta cercando di avere un ruolo nel centrodestra, ma avendo questa situazione di contrasto con Salvini, credo che questo ruolo non possa averlo. Così, bam, fine di Stefano Parisi, almeno, questo almeno stanno le dichiarazioni di Berlusconi. Berlusconi ferma Parisi, è scontro su Salvini, e racconta tra l'altro il Corriere della Sera che dopo questa dichiarazione assolutamente inaspettata dallo stesso Parisi, piovuta come un fulmine a ciel sereno, l'ex manager stupito dice: io non mollo, ci chiariremo. Ieri è andato a porta, dice: se sta con Salvini si tenga Salvini Berlusconi, ma è gelo ad Arcore nei confronti di quello che sembrava il delfino. In questo senso l'analisi più interessante è di Salvatore Merlo sul Foglio, prima pagina: ora tocca Parisi, come funziona il rapporto tra il cavaliere e i suoi 1000 delfini, ricordate Alfano, ricordate il che fai mi caccia e poi la cacciata di Fini, ora appunto Parisi non sopporta nessuno che lontanamente possa essere il suo successore, nemmeno col suo sostegno. Così dice con un lampo di ironia Fabrizio Cicchitto, che lo conosce bene. E raccontano in questo retroscena Salvatore Merlo che di recente Berlusconi, in una telefonata volutamente fatta davanti ai suoi più stretti collaboratori, ha parlato con un interlocutore dicendo: ma che ne pensi della Carfagna? Che ne pensi di Mara Carfagna? E quindi adesso tutti a guardare, sarà Mara Carfagna la prossima che viene promossa sul campo come possibile delfina e poi abbattuta, politicamente parlando anche, si sa, in questo caso. Forse Berlusconi, scrive Salvatore Merlo, in realtà non cerca un delfino cui consegnare sorte e futuro, quanto piuttosto un cetaceo da esibire quando la stagione inizia e da riporre a stagione finita. Potrebbe, come niente, potrebbe cedere lo scettro, ma forse non vuole. Magari l'originale sì, quello sì lo vorrebbe, purché sia il suo perfetto riflesso nello specchio. Cioè Berlusconi, scrive Salvatore Merlo, vorrebbe come successore Silvio Berlusconi, e questo non si può, non è ancora possibile, si sta lavorando per, ma non è così. E Salvini ovviamente gongola, intervistato dal Giorno da Elena Polidori a pagina 7, dice: correrò da premier dopo il 5 dicembre, quando sicuramente vincerà il no. Lui si proclama certo la vittoria del no. E gongola perché dice: Parisi dice che siamo estremisti e pensa ad Alfano e a Verdini. Tieniteli e goditeli. Ma noi l'abbiamo trovato, il delfino di Silvio Berlusconi. Eccolo qua, l'uomo che succederà a Silvio Berlusconi in politica. Mauro Meazza, Berlusconi al Meazza, che poi insomma suona anche... Buongiorno. Non so bene se accettare questa investitura, peraltro non vorrei essere bruciato rapidamente, mi sembra che ci sia un certo consumo di delfini, se capisco bene quanto stavi segnalando, quindi... No, oggi peraltro nulla potrebbe turbare la mia letizia, caro Alessandro, e come mai? Perché oggi grande giorno, perché con il Sole 24 Ore oggi in edicola trovi anche 16 pagine dedicate appositamente alla voluntary disclosure. Allora, questa è una giornatona, me le stavo già leggendo tutte, adesso mi hai disturbato con ovviamente la tua incursione, ma vabbè, ti segnalo che appunto c'è questa nuova opportunità per i tuoi due urini, quindi che hai portato in qualcuno dei paesi esotici che sei uso visitare, sappi che anche eventualmente il contante che tu avessi scordato, non so, sotto mattonelle, in controsoffitti, cioè, anche quello, puoi sanare anche quello, leggi avidamente, direi è un allegato da degustazione, mi sbilancerei a dire, questo sulla voluntary disclosure. O voluntary disclosure. Poi oggi la UE ci dà le pagelle, prima parlavi di scuola, ci danno le pagelle non solo a noi, a tutti gli stati sulle manovre finanziarie. Come sai, insomma, noi andiamo sempre un po' benino, ma facciamo poco, il ragazzo non dovrebbe impegnarsi di più, eccetera, eccetera. Ti spiega tutto Beda Romano nelle prime pagine Sole 24 Ore. Così come ti inviterei a meditare l'articolo da meditazione di Vito Lops, l'andamento dei titoli di Stato dopo la vittoria di Trump, la Trumpflation, ma non te lo posso spiegare in così poco tempo, leggi, medita sull'articolo di Vito Lops. Ti voglio poi segnalare, specialmente per i nostri amici professionisti, abbiamo il dato sul TFR di ottobre. Attenzione. Qui Radiofisco. Qui Radiofisco, certo. E poi, naturalmente, occhio al decreto legge fiscale, l'antipasto della manovra, l'happy hour della manovra finanziaria, perché tra le altre cose di cui riferiamo in più punti del giornale, allora sappi che scompare questa presunzione di evasione per gli accrediti dei professionisti sul conto corrente, cambiano le soglie, è tutto spiegato in norme tributi, e poi arriva la sanatoria delle accise. So, caro Alessandro, che sto turbandoti con queste novità, ma se tu leggerai il Sole 24 Ore, vedrai che tutto ti sarà chiaro. E per il momento altro non ti devo dire. Traffico! Alessandro Milan, il nostro Donaldone dell'informazione. E allora, forza ragazzi, alle 7:49 minuti, il numero per mandare le vostre sigle è il 349-238-6666, lo sapete, via WhatsApp, in audio come questi ascoltatori. Allora, ce n'è anche per il Movimento 5 Stelle, in questo articolo di Felice Cavallaro sul Corriere della Sera, racconta la vicenda delle presunte firme false a Palermo. Caso Palermo, controlli su tutti i nomi degli elenchi ritenuti contraffatti. Oggi saranno sentiti anche i vertici regionali, centinaia dal PM, stretta sulle firme del Movimento 5 Stelle. È un pasticciaccio brutto questo di Palermo, raccontato da Felice Cavallaro oggi a pagina 17 del Corriere. Pasticciaccio anche all'ANAS, questo almeno racconta in un colloquio con Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera Gianni Vittorio Armani, cioè il numero uno, il presidente dell'ANAS. Solo 23 controllori sulle strade dell'Emilia. Armani racconta il tentativo di rimettere a posto l'ANAS, perché quando sono arrivato, dice in questo colloquio con Stella sul Corriere, mi sono trovato in un disastro. Il crollo del viadotto in Sicilia, manutenzione delle strade assurde, inchieste, arresti, una quindicina di lettere anonime sul tavolo a settimana. Ma scherza, per niente. alcune le mandavano persone poi finite in galera, altissimi dirigenti. La stessa Dama Nera, così era definita questa dirigente dell'ANAS, che produceva lettere anonime su tutti gli altri colleghi, una giungla, ogni passo una possibile coltellata. Cioè, il presidente dell'ANAS da 18 mesi racconta dal di dentro questo l'ambiente che ha trovato in azienda. Per questo, si dice, si è liberato di una trentina di dirigenti più 8 licenziati perché corrotti, spendendo 12 milioni di euro per prendere 13 manager di fiducia prima che entrasse in vigore la legge Madia. Come Guido, il carrozzone ANAS, su 196 dirigenti abbiamo 150 cause. Così parla il presidente della società che gestisce le strade italiane. Abbiamo contenziosi per 9 miliardi. Abbiamo una situazione in cui gli addetti ai lavori, sulla Salerno-Reggio Calabria, ci sono 266 addetti per 465 chilometri, cioè ogni chilometro e 700 metri c'è un addetto. Non saranno abbondanti? In tutto in Emilia sono 22 addetti. E quindi... 23 per la verità, sono stato un po' pessimista, 23 per l'Emilia Romagna. Ci sono tante cose che non funzionano nell'ANAS raccontate dal suo presidente Armani oggi in questo colloquio, prima pagina e continua pagina poi 27 del Corriere della Sera, vi invito a leggerlo. Mentre in America, ovviamente dopo la vittoria di Donald Trump, si guarda adesso al possibile governo, alla formazione del governo. Si parla di Rudolph Giuliani, che tornerà forse come segretario di Stato. E poi c'è la polemica su questo caso Carlson. Chi è tale Ben Carlson? Ben Carlson potrebbe intanto diventare il ministro della salute, o meglio ministro dell'istruzione, solo che questo Ben Carlson, se diventasse ministro dell'istruzione, vorrebbe, testuale, detto da lui, riscoprire e valorizzare le radici cristiane nella storia americana, ridimensionare lo spazio dedicato all'Islam nei manuali scolastici, rimettere in causa la teoria dell'evoluzione o del Big Bang perché lui è un creazionista, ridurre o abolire i fondi pubblici alle scuole che coltivano pregiudizi anti-americani. È chiaro che con questo programma, e infatti il Corriere si chiede, il caso Carlson, il dottore creazionista può fare il ministro? Lui è un neurochirurgo in pensione, è stato indicato all'istruzione, forse lo sarà il ministro, forse no, le polemiche sono già garantite. Questo per quel che riguarda l'America. Se torniamo in Italia, vi segnalo questa statistica che mi ha fatto molto sobbalzare. L'addio al medico, ora c'è Dottor Google. Il 58% degli italiani si affidano a internet per, non dico curare, ma per avere una diagnosi dei loro problemi di salute. Certo, racconta Matteo Basile, il problema è che un conto uno, vabbè, può avere la curiosità, poi però vada da un medico, vada da un dottore. Il problema è che molti si affidano non solo alla diagnosi, ma anche ai rimedi, cioè vanno su internet in base ai sintomi, si stabiliscono una diagnosi e scelgono i rimedi, tutto su internet, rimangono lì. Il 58% dei pazienti si fida del web. Complimenti. Vabbè, siamo all'articolo più inutile trovato sui giornali, un'intera pagina del giorno dedicata alla nuova eroina Walt Disney, Vaiana, in Oceania. So già che devo portare i miei due figli presto a vedere Vaiana, Vaiana, Vaiana che cerca la libertà, che non vuole sposarsi, che preferisce al matrimonio la libertà. Eccola la rivoluzionaria eroina Disney. Ma chi se ne frega!